GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Rete di falsi promotori finanziari scoperta dalla Guardia di Finanza dopo la denuncia di un investitore pordenonese che aveva affidato a uno di loro 75.000 euro. Fondazioni bancarie a congresso a Gorizia. Il sottosegretario Freni annuncia l'arrivo del nuovo testo unico della finanza, strumento atteso dal settore. Il porto di Trieste e le opportunità di sviluppo per la regione. All'appuntamento organizzato da Conf Cooperative, la prima uscita del neocommissario dell'Authority Gurrieri. Al via nel pomeriggio il confronto tra i vertici di Marelli e i sindacati. A Tolmezzo 850 addetti guardano ai possibili risvolti. Marsura di Aviano si ribalta Jeep con 6 militari della brigata Ariete. Trieste, giovane stalker in carcere, era tornato sotto la casa di una ragazza che perseguitava nonostante la denuncia. Il potere della scienza è quello della diplomazia. Intervista con il fisico Guido Tonelli sui riflessi delle crisi internazionali. Le 12:31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Daniele Lettige. Una articolata truffa è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Pordenone a partire dalla denuncia di un pensionato che aveva investito 75.000 euro. Le Fiamme Gialle hanno messo a nudo una rete di 15 falsi promotori finanziari, circa 200 le loro vittime per un danno di svariati milioni. Erano convinti di affidare i loro soldi a intermediari autorizzati, invece oltre 200 investitori sono caduti nella rete di un gruppo di 15 falsi broker siciliani attivi in tutta Italia che drenavano il denaro dei truffati in 36 società sparse in Europa. I finti agenti sostenevano, anche grazie ad applicazioni che mostravano la remuneratività degli investimenti, di acquistare per i loro clienti prodotti finanziari e criptovalute. Invece in due anni hanno sottratto quasi 3 milioni di euro. Il denaro veniva dirottato in Asia, rendendo complicato rintracciare i movimenti. Partendo dalla querela di un anziano pordenonese truffato, i finanzieri del Friuli Occidentale hanno ricostruito l'intricata rete criminale e individuato i responsabili. Davide Cardia, comandante Guardia di Finanza di Pordenone. Gli oltre 200 investitori truffati su tutto il territorio nazionale pensavano di interagire con persone effettivamente autorizzate alla raccolta del risparmio. I circa 3 milioni di euro raccolti dai 15 falsi broker, i cui 4 organizzatori sono oggi a processo davanti al Tribunale di Palermo, drenavano invece il denaro raccolto tramite 36 società sparse in tutta Europa e lo veicolavano su altri conti correnti accesi in Estremo Oriente, sui quali è difficile operare una ricostruzione investigativa e soprattutto procedere al recupero delle somme. Le indagini dei finanzieri di Pordenone hanno permesso di ricostruire la rete, identificare i responsabili e deferirli alla Procura della Repubblica. La Procura di Pordenone ha poi trasmesso il fascicolo per competenza territoriale a quella di Palermo, che ha rinviato a giudizio i 4 vertici del sodalizio per truffa e abusivismo finanziario. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. I temi dell'economia e del lavoro. A Trieste, prima uscita pubblica per Antonio Gurrieri, neocommissario straordinario dell'autorità portuale, in attesa di diventare presidente quando sarà ultimato l'iter parlamentare. L'occasione è stato un convegno sulle opportunità che si irradiano dallo scalo a tutta la regione, organizzato da Conf Cooperative. In passato Trieste è importante porto dell'impero austro-ungarico e anche oggi Trieste resta centrale in Europa proprio grazie al porto e ai suoi successi. Nella sua prima uscita pubblica da commissario straordinario dell'autorità portuale Adriatico Orientale, Antonio Gurrieri, invitato da Conf Cooperative a parlare di sviluppo regionale, ha detto: non esiste sviluppo per il territorio senza il suo porto e viceversa. Grazie a questo connubio fra il porto e il territorio e viceversa abbiamo allargato il nostro cluster non solo a portuale e marittimo, ma adesso possiamo dire che quello industriale e quello dei servizi si unisce agli altri due. E quindi siamo una regione forte, un porto forte, che siamo pronti anche alle nuove sfide dei corridoi che si stanno piano piano avvicinando. La nomina a commissario dell'autorità portuale è stata firmata dal ministro dei trasporti Matteo Salvini, ma per vederlo confermare presidente Gurrieri ci vorrà del tempo. Intanto ha scelto come suo braccio destro Vittorio Torbianelli, che è stato a sua volta commissario e già prima segretario generale. Intanto, siccome sono precario anch'io prima di altre nomine, sicuramente segretario generale facendo funzioni come passa anche nei quotidiani oggi, ma noi siamo una squadra molto ben rodata e quindi già lavoriamo da ieri. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca sindacale alla Marelli Automotive Lighting di Tolmezzo si osserva con grande attenzione l'apertura della procedura fallimentare del gruppo italo-giapponese che impiega in Carnia oltre 800 persone. Oggi pomeriggio i sindacati si confronteranno in videoconferenza con i vertici nazionali di Marelli all'indomani dell'apertura del capitolo 11, la procedura fallimentare prevista dal diritto americano. Non si aspetta alcun impatto operativo, l'amministratore delegato del gruppo, David Slump. Tradotto, il lavoro va avanti normalmente. Alla Marelli Automotive Lighting di Tolmezzo lavorano quasi 850 persone, di cui una sessantina di somministrati, segno di un periodo di grande attività per lo stabilimento. La fabbrica produce fanali, in particolare per auto tedesche di alta gamma, e rappresenta un punto di riferimento importantissimo per l'intera Carnia, dando lavoro anche a tante donne. La procedura dovrebbe portare a un cambio di proprietà entro 45 giorni. Un'ipotesi è che il fondo KKR ceda quote della società agli attuali detentori del debito. Si tratta di banche e fondi di investimento. Alla finestra c'è anche un grande nome, l'indiana Samvardhana Motherson. È un momento delicato perché chi compra dovrà presentare un progetto industriale e non sappiamo chi sarà, dice Stefano Boschini, delegato nazionale FIMCISL per Marelli. Tra i 10 stabilimenti italiani della società che apparteneva a Fiat, quello di Tolmezzo sta meglio di tutti, rassicura Boschini. Anche Gianluca Ficco della UIM nazionale parla positivamente del portafoglio ordini della fabbrica carnica. Intanto il ministro per le imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per giovedì prossimo un tavolo con aziende e sindacati che rappresenteranno gli oltre 6.000 lavoratori italiani di Marelli. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca: 6 militari della Brigata Ariete sono rimasti coinvolti in un incidente stradale che si è verificato questa mattina verso le 8.30 a Marsure di Aviano. Il mezzo su cui viaggiavano, una jeep dell'esercito, è uscito di strada. Nessuno dei militari sarebbe rimasto ferito in maniera grave. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Pordenone e i mezzi sanitari inviati dalla centrale operativa Sores, che ha dirottato precauzionalmente in zona anche 2 elicotteri. Arresto differito per un 22enne che si è reso protagonista di atti persecutori nei confronti di una giovane di 23 anni. Il fatto è avvenuto a Trieste, dove qualche giorno fa i carabinieri della stazione di Rozzolla avevano raccolto la denuncia della donna e l'autorità giudiziaria aveva imposto all'uomo residente a Taranto il divieto di avvicinamento all'abitazione della vittima. Il divieto è stato disatteso la sera stessa. I militari, raccolta la nuova segnalazione di molestie da parte della 23enne, rintracciato il giovane, l'hanno portato in carcere. E ora torniamo all'economia. Il sottosegretario del Ministero dell'Economia Federico Freni è tra i partecipanti al congresso dell'ACRI a Gorizia con gli esponenti delle fondazioni bancarie e delle casse di risparmio. L'esponente del governo ha spiegato che entro l'estate dovrebbe essere presentata al Consiglio dei Ministri la prima e più rilevante parte del testo unico della finanza, un documento tutto nuovo molto atteso dal settore che dovrebbe chiamarsi Codice del Mercato Finanziario. Tra gli interventi in apertura di giornata quello di Roberta De Marin, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. Arrivano al Teatro Verdi di Gorizia da tutta Italia i rappresentanti delle 83 fondazioni di origine bancaria rappresentate dall'ACRI. Nate all'inizio degli anni 90 dalla riforma del sistema del credito, diverse per dimensioni e storia, ognuna di loro destina risorse a sostegno delle comunità e dei territori di riferimento, in diversi campi, dal welfare alla cultura, dall'ambiente all'educazione. Giovanni Azzone, presidente dell'ACRI. Le fondazioni e le casse di risparmio nascono dalle comunità, da un'attività secolare delle comunità, e hanno come obiettivo proprio quello di restituire alla comunità in termini di rafforzamento della coesione e di sviluppo economico. Comunità che però stanno cambiando molto in questo periodo. Abbiamo dinamiche dall'invecchiamento della popolazione all'intelligenza artificiale che ci chiedono di ripensare a come è organizzata una comunità. Nel 2023, si è ricordato nel congresso, le fondazioni bancarie nel complesso hanno erogato più di 1 miliardo di euro, con cui hanno finanziato 22.000 iniziative. Maria Teresa Bellucci, vice ministra del lavoro e delle politiche sociali. Il governo è qui per dimostrare apprezzamento per quello che viene svolto dalle fondazioni di origine bancaria e dalle casse di risparmio italiano. Un impegno prezioso all'insegno della solidarietà, dell'inclusione, di un welfare che deve essere sempre più integrato e circolare. Tra le fondazioni del Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Friuli, 24esima in Italia per patrimonio, CR Trieste, 28esima e Carigò, 39esima. Proprio a Carigò il compito di ospitare i lavori del congresso, forte delle erogazioni messe in campo anche per Go 2025. Tra queste, il programma per la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e paesaggistico della provincia di Gorizia. Roberta De Martin, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. Il grande contenitore Carigo Green è un contenitore che è nato con l'idea di valorizzare il territorio e le sue storie attraverso gli strumenti della multimedialità. Sta andando molto bene, un format che la Fondazione sta replicando nelle diverse parti del territorio e soprattutto è un format che sta avvicinando i giovani alla nostra storia. Gorizia, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Si è aperto a Trieste Geoadriatico, simposio internazionale di geopolitica, diplomazia ed economia promosso da Vitale Onlus in collaborazione con l'Università di Trieste. Questa mattina la cerimonia inaugurale al MIB, poi i lavori che si svolgeranno anche nella sede dell'iniziativa centroeuropea e nel Palazzo della Regione proseguiranno fino a domenica. C'è bisogno di tenere vivo l'impegno sui temi ambientali in una vita umana, si riesce a fare moltissimo, lo ha sottolineato l'ammiraglio triestino Dario Giacomin, rappresentante militare della NATO e dell'Unione Europea a Bruxelles, nel suo ultimo giorno di servizio. Una testimonianza che ben si inserisce nei temi del simposio geoadriatico, scienza, diplomazia, politica e religioni, promosso da Vitale Onlus, presieduta da Roberto Vitale. Tra i saluti istituzionali, quello di Maria Tripodi, sottosegretaria agli affari esteri, che ha evidenziato l'importanza di tutelare tre filiere strategiche: acciaio, agroalimentare e meccanica avanzata. Un contributo che ha fatto da preludio al dibattito inaugurale dal titolo Dazi, guerra commerciale e salvaguardia del pianeta, che ha visto la partecipazione di esperti di economia, logistica e trasporti. Per Tullio Gregori, docente di scienze delle finanze all'Università di Trieste, l'attenzione verso la salvaguardia ambientale si è attenuata a favore delle tematiche economiche. Si è discusso di nuovo di protezionismo, della crescente sfiducia verso Cina e Russia dopo la pandemia e la crisi in Ucraina, nonché del ruolo strategico del porto di Trieste nello scacchiere internazionale. Vittorio Torbianelli, commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, ha evidenziato come il futuro del porto franco di Trieste nel contesto dei dazi dipenderà dall'evoluzione della dimensione produttiva, ovvero dalla capacità di trasformare le merci all'interno della piattaforma. In questo quadro si inserisce anche il tema della produzione di idrogeno. Luigi Matarrazzo, direttore generale della divisione navi mercantili di Fincantieri, ha sottolineato come il colosso cantieristico stia puntando con decisione sulla decarbonizzazione. Vogliamo anticipare di 15 anni l'obiettivo fissato per il 2050. Lo stiamo già facendo, investendo su turbine a idrogeno e metanolo. E inoltre allo studio l'applicazione delle tecnologie nucleari in ambito militare alle navi da crociera, ha concluso Matarrazzo. Trieste, Andrea Marucci, TGR Friuli Venezia Giulia. Ha contribuito alla scoperta del bosone di Higgs guidando l'esperimento al CERN di Ginevra. Fisico, divulgatore scientifico, saggista, Guido Tonelli è stato a Trieste in questi giorni e in una lunga intervista che ci ha concesso ci ha parlato anche della diplomazia scientifica, che non sta tenendo il passo in tempi di sanguinosi conflitti come quello in Ucraina. Ascoltiamo l'estratto. Alcuni giorni fa ben 9 premi Nobel sono stati ospiti qui a Trieste per un simposio sui 100 anni della meccanica quantistica. Simposio organizzato dall'ICTP, che è sempre stato in prima linea fin dai tempi della Guerra Fredda nella diplomazia scientifica. Può avere ancora un ruolo la diplomazia scientifica in questi momenti drammatici? Fra scienziati noi siamo abituati a discutere di fisica o di esperimenti o di nuove teorie con gli scienziati di tutto il mondo, che appartengono a tutte le culture, a tutti i paesi. Il fatto che ci siano paesi che sono in guerra fra di loro per noi è assolutamente insignificante. Tuttavia, che in questo momento particolare viviamo uno dei periodi più complicati e più difficili, in cui non solo non riusciamo ad aiutare alla soluzione di questi conflitti, ma addirittura alcuni di questi conflitti si riverberano nelle azioni scientifiche all'interno delle collaborazioni. Ecco, facciamo un esempio: i scienziati russi non lavorano più al CERN. Questa è stata una cosa dolorosa che è avvenuta recentemente in conseguenza della guerra russo-ucraina. Si è avuto al CERN un brutto episodio, perché gli scienziati dei vari paesi lavorano al CERN attraverso un accordo. E l'accordo che permetteva agli scienziati russi di lavorare al CERN doveva essere rinnovato nel 2024 e non è stato rinnovato a causa dei conflitti che sono in corso. Conclusione: io ho amici scienziati che hanno lavorato con noi per decenni, alcuni sono anche oppositori aperti pubblicamente di Putin, quindi rischiano anche le loro posizioni, che non possono più lavorare con noi. E questo per me è un dolore incredibile. Io spero che al più presto si possa sanare questa situazione. L'intervista era di Elisabetta Zaccolo. È ricominciata questa mattina in Consiglio Comunale a Trieste la discussione sulla delibera relativa alla variante urbanistica numero 12 che riguarda il progetto di cabinovia tra la città e il Carso. Dopo la seduta fiume della scorsa settimana in cui l'Assemblea aveva discusso e votato le centinaia di emendamenti presentati al testo dei consiglieri, ora è il turno delle oltre 3.000 tra opposizioni e osservazioni alla delibera presentate dai cittadini e dal comitato No Ovo Via, con il consiglio già convocato per continuarne l'esame anche nella giornata di domani. E proprio per domani alle 17.30 il comitato No Ovo Via ha convocato una manifestazione in Piazza Unità sotto la sede del comune. La sala convegni di Confindustria Alto Adriatico a Pordenone ospita oggi pomeriggio a partire dalle 17.30 l'Assemblea Generale Elettiva dell'Associazione dei Costruttori dell'Alto Adriatico, che procederà all'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Generale per il quadriennio 2025-2029. Abbiamo chiesto al Presidente uscente Elvis Santin un bilancio del suo mandato e uno sguardo alle sfide dei prossimi anni per il settore dell'edilizia. Per il suo successore, quali sono le sfide per il futuro del settore delle costruzioni, appunto, che lei vede e che appunto lascerà in eredità da gestire a chi verrà dopo di lei? Ridare e riportare il valore del costruttore dal punto di vista del percepito, no, dall'opinione pubblica, perché solitamente il costruttore finisce al centro delle cronache quando fa qualcosa che non va bene. E noi stiamo investendo tanto come associazione sulla formazione dei giovani. Stiamo agendo tanto sulle scuole professionali, e quindi la formazione della manodopera, il futuro appunto del nostro mestiere sulla manodopera è fondamentale. Un altro aspetto importante di cui si parla molto oggi è la sostenibilità e il tema anche della rigenerazione. Quali sono appunto le sfide in questo campo per la vostra associazione? Fare sempre più squadra, e non solo quindi solo tra imprese, ma anche con gli studi di progettazione, perché immaginare una riqualificazione, una rigenerazione parte da una buona progettazione e poi dall'utilizzo di materiali che già oggi da qualche anno un po' i bonus nell'appalto pubblico vengono richiesti. Dobbiamo lavorare di squadra per far sì di centrare le direttive europee che ci vengono imposte. 12:47:30, uno sguardo alla situazione del tempo. Abbiamo cielo sereno su tutta la regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste e a Udine 27, a Pordenone 26,5, a Gorizia 27,5. Nell'area montana, a Tolmezzo 24,5, a Tarvisio 21, a Sappada 19,5, sul Piancavallo 20, a Forni di Sopra 22,5, sull'Ussari 14,5, sullo Zoncolan 15,5. Tornando sulla costa, a Grado 27,5, a Lignano 28. Queste le previsioni per le prossime ore. Cielo in prevalenza sereno su pianura e costa, poco nuvoloso sulla zona montana. Sulla costa il vento girerà di brezza. Il fiume Livenza è pesantemente inquinato, lo denuncia da Sacile Mauro Capozzella, coordinatore pordenonese dei 5 Stelle, citando i risultati di un monitoraggio realizzato da Lega Ambiente Veneto con il supporto di ARPAV, l'Agenzia di Protezione Ambientale di quella regione. Gli ultimi controlli compiuti in varie località tra maggio e primi di giugno evidenziano la presenza di Escherichia coli, glicosate e PFAS. Lega Ambiente in particolare ha rilevato concentrazioni di quasi 5.200 batteri coliformi per 100 millilitri d'acqua a Navolè, più di 8.600 a Motta di Livenza e più di 9.200 sempre a Motta, ma a valle della confluenza con il Monticano. Valori che indicano un contributo pesante degli scarichi civili non depurati a sufficienza, sostiene Capozzella, che sollecita controlli. La stagione turistica sta prendendo avvio e non è ancora nella sua fase più intensa. A Grado, però, i flussi del cicloturismo si stanno facendo sempre più consistenti, tanto che si comincia a parlare di bike over tourism. Gli agenti in bicicletta della polizia locale vigilano sul rispetto delle aree ciclabili, ma in alcuni tratti, come Viale Europa Unita, le violazioni sono di fatto una costante. A Grado però il cicloturismo non pone soltanto una questione di regole del traffico, ma fa affiorare anche il tema quantitativo. I transiti annuali hanno toccato quota 300.000. Massimiliano Marocco, guida cicloturistica regionale autorizzata. Questo movimento del cicloturismo non deve essere assolutamente criminalizzato, anzi è una grande risorsa per il territorio. Purtroppo sta raggiungendo quasi dimensioni emergenziali. È arrivato il momento di creare delle strutture adeguate per ricevere questi nostri ben amati cicloturisti. Soprattutto nel centro storico si è notato un pullulare di cartelli vietato parcheggiare biciclette, perché i privati e anche i pubblici esercizi sono costretti a, tra virgolette, difendersi da questo movimento. Molti alberghi si sono già attrezzati, però bisogna programmare anche degli stalli sul territorio, sull'isola. La ciclovia Alpe Adria termina a Grado. C'era un bellissimo cartello, questo era come una sorta di traguardo per i cicloturisti che arrivavano nella nostra isola. Ora purtroppo non c'è più questo cartello. Sentiamo ora un cicloturista austriaco. Die Fahrradstände sind zu schmal. Il portabici è troppo stretto per le gomme spesse della e-bike e danneggia i pneumatici, quindi ho dovuto legarla sul lato. Ci vorrebbe un altro sistema di parcheggio. Intanto è stato aperto il nuovo percorso che dalla ciclovia Alpe Adria porta a Belvedere Pineta. Greta Reverdito, vice sindaca e assessore al turismo di Grado. Abbiamo recentemente approvato il biciplan in consiglio comunale, che è un importante strumento di pianificazione territoriale per organizzare meglio le ciclabili sul nostro territorio. Inoltre abbiamo avviato uno studio di fattibilità per la riqualificazione della Villa Ostende, un edificio centrale a Grado, sarà proprio una zona di ristoro, parcheggio a servizio dei cicloturisti. Infine stiamo valutando dove posizionare dei nuovi portabici, così da avere un centro città più ordinato. Grado, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Rinnovo della pavimentazione di gioco e delle attrezzature sportive ormai superate, allestimento con arredi degli spogliatoi, installazione di pannelli trasparenti lungo i parapetti del perimetro di campo di gioco. Sono questi gli interventi di adeguamento previsti al Pala Bigot di Gorizia che serviranno a rendere l'impianto di fatto finalmente fruibile. Lo ha reso noto l'assessore comunale allo sport Giulio Daidone, annunciando l'approvazione da parte della giunta del progetto esecutivo dei lavori, per cui adesso scatterà la procedura di affidamento. La spesa complessiva 500.000 euro, finanziati per 2/3 dalla regione e per il resto dal comune di Gorizia. Alcuni appuntamenti di cultura e spettacoli. A Casarsa della Delizia si conclude la seconda edizione del Festival di Musica Sacra Giovanni Fabris. Alle 21 nel Duomo di San Giovanni Battista a San Giovanni di Casarsa, in scena il gruppo vocale Viriditas e le sezioni femminili dell'insieme vocale Elastico. L'attrice medunese Paola Valle presenta oggi il suo volume Donne protagoniste, donne coraggiose, in cui ricorda alcune figure femminili di varie epoche, accomunate da storie di coraggio, determinazione e battaglie per i diritti, alla Galleria Accademia Città di Udine alle 17. Il libro del giornalista e manager Carlo Romeo, Il muro e il silenzio, che racconta una settimana di primavera nella Roma del 1944 fra guerra, fame, paura e bombardamenti, sarà presentato oggi alle 17.30 al Circolo della Stampa di Trieste. Al Via Lignano la 27esima edizione degli incontri con l'autore e con il vino. Si inizia con la presentazione delle storie nate dallo stage di scrittura creativa di Lignano curato da Alberto Garlini, storie riunite nell'antologia Lignano ti racconto. A seguire la presentazione della Porta Chiusa di Natalina Odorico, tutto alle 18.30 al Pala Pineta, nel Parco del Mare. Buia, un paese, la sua gente, la lunga strada verso la democrazia e la libertà è il titolo dell'incontro in cui saranno presentati i diari inediti scritti durante il periodo della Resistenza dal buiese Pietro Menis e curati da Matteo Ermacora. Alle 20.15 alla Biblioteca Comunale di Buia. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Daniele Lettige e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Pasquale Nocere e Bruno Montevecchi, ha collaborato in redazione Samantha Gon. Sono le 12.54, la prossima edizione alle ore 15. A tutti voi, grazie per averci seguito, ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.